gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonanotte a tutti e bentornati in un'altra puntata delle buonanotti di allineamenti. Siete qui con Mendo. Come state? Tutto bene? Questa sera vi volevo parlare di uno dei miei poeti preferiti, Blake, e Visioni, uno dei miei libri preferiti, con una delle mie poesie preferite, Tiger. E prima di farvi sentire Tiger di Blake, volevo raccontarvi di un'altra delle mie artiste preferite, visto che siamo in tema, Tash Sultana. Sono stato a vederla un paio di settimane fa a Milano. Devo dire abbastanza stramigliante, e trovo piuttosto delle similarità con questo brano, con Tash. Lei è completamente fuori di testa ed è un po' come la tigre di Blake. È salita sul palco da sola e ha suonato per 2 ore e mezza intrattenendo 3.000 persone. Vi volevo fare sentire Jungle. Thank you. E bentornati sulle buonanotti di allenamenti. E adesso da Blake from Song of Experience, The Tiger. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burn the fire of thine eyes? Or what wings dare he aspire? What the hand dare size the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil, what the grasp, there its deadly terror clasp? When the stars drew drawn their spears, and water heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Grazie mille a tutti per aver passato un'altra buonanotte con me. Saluti da Ciao Come Radio e dalle buonanotti degli allenamenti. Buonanotte. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.